visto per la prima volta, non c'era il segno illuminante di un presagio, ma il tuo sorriso chiaro e disarmante era più forte delle mie difese. È tutto quanto scritto, è tutto quanto noto, è tutto quanto atteso, è tutto già deciso, il mio futuro, la nostra storia, i miei ricordi, la tua memoria. In una strada che portiamo avanti, da quella piazza ad un locale insieme, dove si beve e intanto si ragiona e si confrontano le nostre anime. È tutto quanto scritto, è tutto quanto noto, è tutto quanto atteso, è tutto già deciso, il mio futuro, la nostra storia, i miei ricordi, la tua memoria. Ma se tornassi indietro, lo rifarei ancora. Desiderio ha una sua forza propria, che ci travolge, che ci rende ciechi, e fa tentare ciò che nel giudizio si riterrebbe forse inopportuno. È tutto quanto scritto.